Briciola! Attento, Brigido, oggi sei. Tutti morti il 1° maggio, cazzo, tutti morti. Già sta facendo tempo del cavolo e siete tutti in giro. Boh, oggi la vescia di Rimandroni, gatta. Il rinvio è stato giustificato, motivato. Tattolino! Segna e le stazionarie però vedi allora